Pensa che ci possa essere un'analogia tra Gesù Cristo e il punk degli anni Ottanta, entrambi, tra virgolette, contro, diciamo, maltrattati, umiliati. Grazie. Mi devo informare sul punk degli anni Ottanta, perché io sono rimasto Ricky Punk, Equipe 84, Fabrizio De André, Lucio Battista, insomma, le cose generazionali. Aspetta che domandiamo all'esperto degli anni Ottanta, Padre Daniele. Allora, il punk è iniziato un po' prima degli anni 80 con i Sex Pistols, con i Clash, quindi andiamo contro, e penso che in questa piazza ci siano molti che vanno contro la società, una sorta di anarchia anche, capito? E sono anche un po' ovviamente maltrattati e anche umiliati, perché cercavano qualche cos'altro, diciamo così, quindi molto spesso cantavano una sofferenza che non trovava ascolto o pace, diciamo così. Ecco. C'è un'analogia fra questa sofferenza e questo essere maltrattati e Gesù Cristo? Dunque, sull'andare contro, penso che il problema è andare contro che cosa, intendiamoci, perché qualche volta uno per principio va contro, poi non sa manco più a chi, però deve andare contro, tanto che quelli che devono per vivere devono averci un nemico. Guardate che ci stanno parecchi, che vivono perché litigano, perché hanno qualcosa su cui prendersela. Allora credo che in quel caso a me non interessa, e tendenzialmente il cristiano non è uno che va contro, ma va incontro, questo sì. Allora se io devo andare contro una vita, diciamo, fuori, che di evasione, accetto che vado contro, ma nel senso che penso che debba andare appunto incontro. Credo che nelle diverse generazioni, io penso, non so, appunto, la generazione prima, di tante, non so, a me, per esempio, quando ero piccolo, una delle canzoni, piccoletto, c'era Grandicello, una delle canzoni che cantavano i giganti, questo, su questo Riccioni ce la può cantare, sa anche tutti gli accordi, sicuro, faceva così: mettete dei fiori nei vostri cannoni. Ecco, i cannoni nel frattempo sono diventate altre cose, però era molto giusto, cioè mettete di più i vostri cannoni. Assistiamo alla guerra, quella che viene giustamente chiamata guerra mondiale a pezzi, anche per farci capire che ogni pezzo ci deve interessare, perché se è mondiale vuol dire che ogni pezzo li riguarda. Oh, non c'è tanta gente che va contro i cannoni. Allora, per questo dico, certamente dobbiamo andare contro la guerra, contro l'esclusione, contro l'ingiustizia, contro il fatto che della logica del mercato, contro il fatto che la vita non vale niente se non consuma, contro lo scarto, cioè contro il fatto che a un certo punto la vita la butto via. E questo sì. Allora penso che nelle varie generazioni canore in realtà c'è sempre stato in fondo una ricerca di andare contro, e penso che su questo siamo vicini, perché è il modo con cui è l'aspirazione per liberarsi. Sempre quando ero piccolo, una delle parole chiave era l'alienazione, e non essere alienati era una roba che poi non è che si capiva molto bene che cosa significa essere alienati, però ho l'impressione che viviamo molto in un mondo di alienati, e che per questo dobbiamo andare contro l'alienazione, perché forse a qualcuno interessa che noi siamo alienati. Cioè, poi a un certo punto, se tu non pensi, è molto meglio per chi ti deve vendere tutto, per chi usa, perché è molto più complicato se qualcuno pensa. Allora andiamo contro questo e andiamo incontro agli altri.